bianca spina con quegli occhi stanchi, questa sera non passerà. Bianca spina senza tanti complimenti mi tradirà. Bianca spina, tutto quello che dice io ci crederò, perché in fondo ha una bella voce e con piacere l'ascolterò. Tutto quello che vuole è solo un poco di affetto e io senz'altro glielo darò. Bianca spina domani come un campo di fiori e primavera si sveglierà e sarà più leggera, più leggera del vento, intorno al sole volerà. Bianca spina, tutto quello che trova non lo tiene per sé, va dicendo da tempo che ha un amore più grande, quanto grande però non sa. Bianca spina conosce la sua ombra imperfetta e da domani se ne staccherà. E un sorriso varrà più di mille cannoni, Bianca spina lo sa e non cerca ragioni. Se in silenzio verrà giù dall'alto del cielo, Bianca spina vivrà un amore più vero, un amore più grande, più sicuro del tempo. Costruirà piano piano e vivrà sull'incanto. Bianca spina lo sa che non ci vuole poi molto a camminare sopra i tetti, in equilibrio sul mondo, per vedere che cosa accadrà, per vedere che cosa accadrà. Bianca spina non sente il bisogno di urlare, quest'inverno lei partirà. Io starò ad aspettare quel giorno, e quel giorno passerà. Bianca spina un altro viaggio da sola e tante lune da portare con sé. Ha giurato un po' a tutti che ogni sera è diverso, che ogni sera si sente su. Con il naso schiacciato dietro i vetri di casa, guarda il fosso e non piange più. E un sorriso varrà più di mille cannoni, Bianca spina lo sa e non cerca ragioni. Se in silenzio verrà giù dall'alto del cielo, Bianca spina vivrà un amore più vero, un amore più grande, più sicuro del tempo. Costruirà piano piano e vivrà su un incanto. Bianca spina lo sa che non ci vuole poi molto a camminare sopra i tetti, in equilibrio sul mondo, per vedere che cosa accadrà, per vedere che cosa accadrà.